Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi quello che vogliamo fare è questo: metterci in condizione ai cittadini romani di esprimere la loro opinione tramite degli strumenti che verranno logicamente riconosciuti, però nel momento esatto in cui al 100% possono sapere. Però questa è una notizia. Che poi questo si possa fare tramite dei sondaggi di opinione, delle ricerche di mercato, commissionando a un soggetto terzo che cosa veramente pensano, però il tema è: no, tu vuoi o non vuoi le Olimpiadi? Vuoi le Olimpiadi fatte in questo modo? Le volete fatte in questo modo? Malagò, presidente del CONI, che stava parlando al Corriere TV, ha detto che intende entro poco tempo indire un sondaggio tra i romani per chiedere loro se davvero, non tanto appunto vogliono le Olimpiadi, perché sapete che Roma è candidata alle Olimpiadi, ma se le vogliono a queste condizioni, cioè un budget piuttosto basso, perché prima le condizioni per candidarsi erano certe infrastrutture, adesso non è più così, e quindi ci sarà proprio questo sondaggio. Sappiatelo, romane e romani, preparatevi quindi a rispondere su questo, preparatevi naturalmente a sentire tutto il racconto della giornata con ospiti con i quali come sempre approfondisco alcuni argomenti. Questa sera Effetto Notte, ci sono moltissime notizie per voi, sempre due canali privilegiati per interagire qui con Effetto Notte, che è la pagina Facebook del programma, sempre lì presente per voi giorno e notte, e poi ci sono i messaggi, gli sms che potete mandare al 349-238-6666. Gli argomenti, dicevo, sono moltissimi come sempre. Si parlerà del salvabanche. Ieri proprio in diretta Effetto Notte, negli ultimi minuti, avevamo contattato il direttore di Etruria News, questo sito di notizie, che era quello che aveva dato la notizia del suicidio del pensionato che aveva perso tutti i suoi risparmi nel fallimento della banca dell'Etruria, e notizia che si era avuta soltanto appunto ieri sera, e lui ce l'aveva confermato e anche aveva un po' raccontato la storia e come ne era venuto a conoscenza. Ne parleremo ancora stasera per capire di cosa si tratta effettivamente, cos'è questo salvabanche, perché poi è iniziata questa polemica tra governo italiano e Unione Europea. Poi ci occuperemo anche di una sentenza storica, quella che è avvenuta a Milano da parte della Corte d'Appello, che ha deciso di riconoscere la figlia di una coppia di donne che si sono sposate in Spagna, che hanno avuto questa figlia in Spagna, poi si sono separate, sono tornate in Italia, e la Corte d'Appello ha riconosciuto la genitorialità anche dell'altra donna, quella che non ha avuto, diciamo, la gravidanza, che non ha partorito la bambina. Ne parleremo, quindi sicuramente farà questa cosa giurisprudenza, a questo punto è un precedente. Poi ci aggiorneremo, COP21, la conferenza internazionale sul clima a Parigi, come sta andando, visto che domani si chiudono i battenti, poi il calcio, poi vi parleremo anche, anzi questo è un input che vi lancio. La Lombardia ha dato un giro di vite contro chi indossa abiti come burka e niqab. La giunta Barroni ha modificato il regolamento di accesso alle strutture regionali e agli ospedali, vietando espressamente l'ingresso a chi si presenta con il volto coperto, che potrà essere quindi respinto. I dirigenti delle strutture hanno fino al 31 dicembre per adeguarsi a questo regolamento. La legge già c'è in Italia, però dice se ci sono motivi religiosi allora si può soprassedere, invece secondo la Regione Lombardia non si può soprassedere, basta, non ci si può velare il volto con un burka oppure con un passamontagna. Siete d'accordo su questo? 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto andiamo a sentire che giornata è stata. Salvabanche, dopo la notizia del pensionato che si è tolto la vita, la procura indaga per istigazione al suicidio. Renzi difende il decreto, salvati posti di lavoro, ma scoppia la polemica con Bruxelles. Il processo per le tangenti a Sesto, assolto Penati e tutti gli altri imputati, prescritte le vicende Falk e Marelli. La minaccia dell'ISIS, non c'è solo Ginevra nel mirino di possibili attacchi terroristici, ma anche Toronto e Chicago, lo affermano i media svizzeri. Migranti, Bruxelles apre la procedura contro l'Italia, Renzi attacca, chiesti 35 anni per gli scafisti del naufragio in cui morì il piccolo Aylan. Coppie gay, sentenza storica, la Corte d'Appello dichiara l'efficacia in Italia del provvedimento con cui una donna ha adottato in Spagna la figlia della sua compagna nata con fecondazione eterologa. Giubileo, niente scioperi nei servizi essenziali nei giorni più importanti, calcio, ultimo impegno nel girone di Europa League per Napoli, Lazio e Fiorentina. Partiamo quindi dalle polemiche, vi dicevo, sul decreto salvabanche varato dal governo lo scorso novembre. L'Europa interviene su questa vicenda, attacca i quattro istituti di credito coinvolti, vendevano, dice, alla gente prodotti inadatti a questo. Ha avuto quindi conseguenze per alcune persone in Italia, ha dichiarato così il commissario europeo ai servizi finanziari Jonathan Hill, riferendosi al suicidio appunto del pensionato di Civitavecchia. In ogni caso, ha spiegato il commissario, è il governo italiano a essere alla guida del processo di salvataggio e ha la responsabilità per questo. Renzi ha risposto così. Le regole delle banche adesso le decide l'Europa. Fino a 10 anni fa non era così. E molti paesi hanno messo un sacco di denari pubblici per salvare le banche. Do un numero. La Germania ha salvato le proprie banche con 247 miliardi di euro. Le dico, l'Italia non ha messo denaro pubblico. È stata una scelta dei precedenti governi. Fatto sta che oggi le regole sono cambiate a livello europeo. Noi, anche se volessimo, non potremmo più fare come è stato fatto in passato da altri paesi. Il nostro sistema è comunque più solido. Io, per esempio, non ho alcuna difficoltà nel dire che il sistema bancario italiano, a mio avviso, e non soltanto a mio, è più solido di quello tedesco, ad esempio. E nel tardo pomeriggio la ministra Maria Elena Boschi ha annunciato, stiamo approfondendo un intervento ulteriore sulla legge di stabilità per andare incontro agli obbligazionisti straordinari. Poi però, mi dicevo, torniamo a parlarne di questo argomento. Passiamo al processo per le tangenti a Sesto. Il Tribunale di Monza assolve l'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, e altri 10 accusati di corruzione e finanziamento illecito per presunto sistema tangenti. L'esponente del Partito Democratico, appunto, Penati, esulta. Bersani, di cui era braccio destro Penati, dice: non ho mai dubitato, ma 4 anni sono lunghi. L'accusa però non ci sta, non si può dire sistema Sesto, che non si può dire che non esistesse. L'inchiesta è intaccata dagli esiti della legge Severino. Anche qui poi cercheremo di capire con chi ha seguito questo processo di cosa si tratta. Camorra, 28 ordinanze di custodia cautelare sono state emesse oggi dal GIP di Napoli contro il clan capeggiato dai boss dei Casalesi, Michele Zagaria, coinvolti anche gli amministratori pubblici e imprenditori, tra questi l'attuale sindaco di Trentola Ducenta in provincia di Caserta, Michele Griffo, tuttora irreperibile. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo camorristico, riciclaggio, estorsione, abuso d'ufficio e truffa. E poi la minaccia dell'ISIS. Non c'è solo Ginevra nel mirino di possibili attacchi da parte dell'ISIS, ma anche Toronto e Chicago. Lo affermano i media svizzeri citando un rapporto dell'intelligence americana che ha fatto scattare l'allerta a Ginevra. La segnalazione sui 4 sospettati arriva dagli 007 americani. La distruzione dell'ISIS, sempre a proposito del sedicente Stato Islamico, è l'assoluta priorità, lo ha ribadito il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi alla conferenza per il dialogo mediterraneo in svolgimento a Roma. Il presidente del Consiglio Renzi apre la conferenza sul Mediterraneo a Roma. Il pensiero va alla Siria, alla Libia, al terrorismo che minaccia i due paesi. La distruzione dell'ISIS è l'assoluta priorità, ribadisce allora il premier, che ricorda la collaborazione internazionale va ulteriormente sviluppata. Europa e USA condividono con Mosca l'esigenza di combattere lo Stato Islamico, ma serve una soluzione che abbia respiro strategico e non sia last minute, quindi la principale conseguenza del terrore. La gente in fuga dalla propria terra, l'immigrazione che impegna l'Italia con non pochi problemi ormai da molto tempo. Su questo l'Europa non fa tutto quello che può, accusa Renzi. Anche se questo dovesse costarci la perdita di voti, non perderemo mai la nostra dignità. Ecco perché continuiamo con le nostre donne e con i nostri uomini a lavorare nel Mediterraneo per salvare anche solo una vita umana. La procedura di infrazione non è la risposta che ci aspettiamo dall'Europa, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gozzi. Altro capitolo, le sanzioni europee alla Russia. Il nostro paese si smarca, no al rinnovo automatico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la notizia che vi ho lanciato un po' come possibile fatto su cui fare i vostri commenti, sia dalla pagina Facebook di Effetto Notte e sia attraverso i messaggi al 349-238-6666, che è questa. Dal 1 gennaio 2016 sarà vietato l'ingresso negli ospedali della regione Lombardia alle donne coperte da velo integrale. Da gennaio niente burca o niqab nelle strutture regionali e negli ospedali lombardi. Lo ha deciso la Giunta Maroni, che ha modificato il regolamento sull'accesso nei luoghi pubblici, sottolineando che nessuno potrà entrarvi senza mostrare il volto. Si tratta di una specificazione ad hoc di una legge dello Stato italiano del 1975. Simona Bordonali è assessore regionale alla sicurezza. Noi non siamo assolutamente contro chi decide di abbracciare una determinata religione, ma siamo contro coloro che si coprono integralmente il viso. Potrebbe nascondersi chiunque, anche persone pericolose. Aodi Faod è presidente della comunità del mondo arabo in Italia e medico di origini palestinesi. Sì, a garantire la sicurezza e al viso scoperto, specialmente in questo momento di fobie. Detto questo, parliamoci chiaro, quanti portano il burka in Italia? Sono pochissimi. Quel che è certo è che quelle pochissime verranno respinte al pronto soccorso da gennaio in Lombardia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Che ne pensate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori? Scrivete le vostre opinioni, ve l'ho ricordato più volte, il numero per gli sms è 349-238-6666 oppure comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito di donne invece, una notizia piuttosto rivoluzionaria che arriva dall'Arabia Saudita. Sabato prossimo, quindi tra due giorni, 865 cittadine saudite entreranno nella storia perché parteciperanno come candidate a una tornata elettorale, quella per i consigli municipali per la prima volta. Questo vede riconosciuto il diritto di voto e di elezione alle donne in Arabia Saudita. Per la prima volta possono votare in un paese dove vengono negate loro moltissime libertà, tra cui per esempio quella di guidare. Le candidate concorrono con quasi 5.300 colleghi uomini per aggiudicarsi due terzi dei seggi in 284 consigli. Il problema è che sono partite subito con un serio handicap queste candidate, cioè è stato vietato loro di tenere comizi e altre iniziative elettorali in cui siano presenti degli uomini. Quindi potete immaginare che pubblicità si possano fare. Torniamo però in Italia con i dati Istat, secondo i quali in più di 50.000 sono senza fissa dimora nel nostro paese. Il dato in aumento rispetto agli anni precedenti, sono per la maggior parte uomini, più della metà stranieri. Senza fissa dimora. Questo sono diventate più di 50.700 persone che in Italia vivono per strada. Sono quelle che hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nella finestra di due mesi tra novembre e dicembre 2014 in uno dei 158 comuni italiani in cui l'Istat ha indagato. Un dato in aumento, oggi corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine, ma è salito rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille. Misurato in persone erano 47.648 e sempre rispetto a tre anni prima la fotografia è la stessa, per lo più uomini, quasi l'86%, più della metà stranieri con meno di 54 anni, anche se l'età media è salita da 42 a 44 e sono meno istruiti, più soli, pochissimi con un partner o un figlio, poco più della metà non si è mai sposato e sono senza fissa dimora da tempo, molti da due anni, aumenta chi lo è da quattro, sono sempre meno quelli che contano i giorni senza tetto in mesi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi dicevo di questa sentenza storica a Milano per le coppie gay, almeno per le coppie delle donne. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato l'efficacia in Italia del provvedimento con cui una donna adottata in Spagna, la figlia della sua compagna, le due si sono sposate e poi hanno divorziato nel paese iberico, nata questa bambina con fecondazione eterologa. I giudici hanno ordinato la trascrizione dell'atto, dicono che è stata adeguatamente amata, dicono i giudici, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe, quindi entrambe hanno diritto di essere genitrici. Di questo parleremo più tardi qui Effetto Notte. Poi adesso direi che è il caso di sentire come stanno andando le partite le italiane nell'Europa League. Ce lo dice Giovanni Capuano. Caro Giovanni. Eccomi Roberto, ciao, buonasera. Stiamo andando bene. Stiamo andando bene nel senso che una partita è già finita ed è la partita del Super Napoli che si merita davvero questo appellativo. 5 gol ha vinto 5-2 contro il Legia Varsavia. Gara che era abbastanza inutile perché il Napoli aveva già la certezza aritmetica non solo della qualificazione ma anche del primo posto in classifica, ma insomma i numeri del Napoli fanno impressione in questa Europa League: 6 vittorie su 6, 22 gol fatti, solo 3 subiti, e sono numeri assolutamente da record. Il Napoli entrerà nei sedicesimi di finale come migliore delle 32 squadre qualificate in questa prima fase ed è certamente una bella soddisfazione. Questa sera i gol sono stati segnati da Chalobah, Insigne, Callejon e doppietta di Mertens, questi 5 gol del Napoli che giocava con tante seconde linee perché domenica c'è una partita importantissima, quella contro la Roma, però anche le seconde linee si sono dimostrate all'altezza contro Legia Varsavia in una gara che è stata preceduta purtroppo da diversi scontri e incidenti sia nella tarda serata di ieri che nel pomeriggio di oggi in varie zone della città. Erano un centinaio gli ultras polacchi, ma hanno creato davvero tanto scompiglio con 16 arresti, una decina di feriti e insomma una situazione che ha preoccupato l'ordine pubblico fino all'immediato vigilia della partita. Invece, tornando al campo, da circa una dozzina di minuti stanno giocando la Fiorentina e la Lazio. La Fiorentina, cui serve un punto per qualificarsi ai sedicesimi di finale, gioca in casa contro i portoghesi del Belenenses, sta pareggiando ancora 0-0. Fiorentina che sta però facendo la partita, anche se anche Paolo Sosa ha messo diverse riserve perché c'è Fiorentina-Juventus domenica sera e quindi insomma c'è l'interesse anche di far rifiatare un po' i titolari. Serve un punto alla Fiorentina, giocano Babacar e Pepito Rossi, però buon approccio quello dei Viola. L'altra partita che si sta disputando in questo momento è quella in Francia tra Saint-Étienne e Lazio. La Lazio è già qualificata per i sedicesimi di finale, ha bisogno però di una vittoria, ha bisogno di fare bene per puntellare la panchina di Pioli. Anche qui il risultato intorno al dodicesimo minuto è sullo 0-0 e Pioli, proprio perché ha bisogno di fare un bel risultato, ha fatto poco turnover. È vero che davanti ci sono Matri e Giorgievic, ma insomma a centrocampo in difesa giocano parecchi titolari. Grazie Giovanni Capuano, poi seguiremo man mano l'andamento di queste partite. Io sto seguendo l'andamento dei vostri messaggi a proposito della stretta del giro di vite della Lombardia sul portare il burka o il niqab, quindi il viso velato nei vari luoghi degli ospedali, gli uffici eccetera. Clotilde dice al 349-238-6666: mi spiace, per una volta concordo con Maroni, niente da dire sul velo, lo hanno anche le suore, ma il viso deve essere ben riconoscibile per uomini e per donne. Poi dice Antonella sulla pagina Facebook: certo, se non puoi entrare in tabaccheria col casco in testa, dato che non saresti riconoscibile se sei un malintenzionato, perché dovresti andare in giro con la testa fasciata nascondendo le fattezze, qualsiasi siano i motivi per i quali li indossi? Marco dice: assolutamente giusto vietarlo per la sicurezza e per la dignità delle donne. Ci sentiamo tra pochi istanti. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Stiamo per addentrarci man mano con gli ospiti nelle notizie, in alcuni fatti del giorno, e ancora vedo a proposito di fatti del giorno questo giro di vite, vi dicevo, in Lombardia sul burka. Gilles scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: giusto, giustissimo, non è razzismo vietarlo, è un'elementare misura di sicurezza pubblica, siccome siamo in Italia però ci saranno proroghe, deroghe, eccezioni e soprattutto non ci sarà nessuno che faccia rispettare la regola. In caso di sanzioni poi farà ricorsi al TAR, consigli di Stato, cassazioni eccetera, si arriverà a morte per vecchiaia avanzata prima della sentenza definitiva oppure interverrà la prescrizione. Voi continuate anche al 349-238-6666. Tra pochissimo allora il primo ospite, però se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, volete sapere quali sono le notizie più importanti, eccole qua. L'Unione Europea sul salvabanche attacca questo decreto. Vendevano queste banche, dice l'Unione Europea, prodotti inadatti. A proposito del pensionato che si è suicidato, intanto c'è un'indagine per istigato suicidio da parte della Procura di Civitavecchia e Renzi accetta, dice sì, a una commissione d'inchiesta. Penati, Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano, ex sindaco del distretto San Giovanni, è stato assolto sul processo, a proposito del processo sulle tangenti a Sesto. Dice: finita un'ingiustizia, i giudici nella sentenza scrivono: il fatto non sussiste. Bruxelles apre la procedura sui migranti contro l'Italia che non raccoglie le impronte dei migranti e Renzi dice: continueremo a salvare vite, non dimentichiamo come fanno gli altri. Poi da Roma un nuovo allarme: ISIS vuole conquistare anche la Libia, allerta terrorismo anche a Ginevra. E poi avete sentito la Lombardia che vieta il niqab e il burka negli ospedali e negli uffici nella regione. E poi da a proposito intanto domani dovrebbe iniziare la Leopolda, una nuova Leopolda a Firenze, e stavo guardando invece i risultati delle partite d'Europa League, che vi dicevamo prima: il Napoli ha battuto per 5-2 il Legia Varsavia, sempre in campo Fiorentina Belenenses e poi Saint-Étienne Lazio 0-0, anche la Fiorentina 0-0 per il momento. Dunque, ieri, mentre ero in onda con voi, è arrivata la notizia che un pensionato di 68 anni di Civitavecchia, ex dirigente dell'Enel, si è suicidato lasciando una lettera in cui spiegava che arrivava a questo gesto estremo dopo aver perso tutti i risparmi di una vita, 110.000 euro, a causa del fallimento della Banca dell'Etruria, che è una delle quattro banche che il governo ha salvato con il decreto, ormai noto, decreto salva banche varato a novembre. Il suicidio in realtà è avvenuto il 28 novembre, però la notizia è trapelata soltanto ieri sera perché c'è stata la rivelazione di del direttore di un sito di notizie, Etruria News, che lo aveva percepito, diceva, da alcune cose che erano girate su Facebook, e poi aveva avuto il coraggio di andare a casa della vedova di quest'uomo e di chiarire la vicenda. Risentiamo un passaggio di ieri qui a Effetto Notte. Giampaolo... Ho scoperto perché, diciamo, su Facebook era iniziata a trapelare questa voce, e alla fine ho trovato il coraggio di noi giornalisti, sono andato a casa della vedova e è uscita fuori la verità, è uscita fuori questa lettera che è un duro atto d'accusa nei confronti della Banca Etruria, che dal momento in cui ha cambiato il profilo, diciamo, di rischio del signor Luigino D'Angelo, che 68enne, che si è suicidato per aver perso 110.000 euro dei suoi risparmi di una vita, quindi tutto quello che aveva, e praticamente il decreto ha posto fine a tutti i tentativi vani che lui aveva messo in piedi per cercare di rientrare in possesso del capitale. E così è arrivato a questo gesto, così mi spiegava ieri Paolo Gianlorenzo, direttore di Etruria News. Il salvabanche è praticamente il decreto, vi dicevo, che ha varato il governo a novembre, che ha evitato il crack di quattro istituti, tra cui anche appunto la Banca dell'Etruria. Però che cosa ha fatto? Ha azzerato i crediti degli obbligazionisti. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Adesso c'è questo rimpallo di responsabilità tra il governo e Bruxelles. Ne parliamo con il Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Buonasera Roberta. Io farei sentire anche che cosa ha detto fra le varie cose Renzi oggi. Sentiamo. Non sono abituato a strumentalizzare la vita e soprattutto la morte di alcune persone. Naturalmente il nostro dolore, il nostro sentimento di condoglianze alla famiglia. Quello che però è fondamentale che esca con molta chiarezza da parte nostra, al lavoro per trovare le soluzioni laddove è possibile. E poi, a proposito di chi ha deciso queste regole, risettiamo. Le regole delle banche adesso le decide l'Europa. Fino a 10 anni fa non era così. E molti paesi hanno messo un sacco di denari pubblici per salvare le banche. Do un numero. La Germania ha salvato le proprie banche con 247 miliardi di euro. Le dico, l'Italia non ha messo denaro pubblico. È stata una scelta dei precedenti governi. Fatto sta che oggi le regole sono cambiate a livello europeo. Noi, anche se volessimo, non potremmo più fare come è stato fatto in passato da altri paesi. Il nostro sistema è comunque più solido. Io, per esempio, non ho alcuna difficoltà nel dirle che il sistema bancario italiano, a mio avviso, e non soltanto a mio, è più solido di quello tedesco, ad esempio. Poi si è parlato di una possibile soluzione, anche la ministra Boschi ha detto che verrà inserito un emendamento nella legge di stabilità per aiutare in parte almeno questi che hanno perso questi soldi. Chicco Padula, chi ha torto, chi ha ragione, dove sta la questione? Ma sai, ovviamente è molto complicato stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Mi sembra che, insomma, al momento non possiamo che concordare con Renzi sul fatto che, insomma, per questo episodio del pensionato serva, come dire, del pensionato che si è tolto la vita, serva anche una presa di responsabilità da parte di tutti su una vicenda che è oggettivamente complicata, perché ieri abbiamo assistito a un rimpallo di accuse tra la Banca d'Italia e l'Unione Europea. Il nodo del contendere, il punto del contendere, era proprio lo strumento utilizzato per salvare queste quattro banche. Secondo Banca Italia, la UE non ci avrebbe consentito di utilizzare uno strumento che si chiama Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che avrebbe consentito di salvare anche, diciamo, queste obbligazioni particolari, che sono le obbligazioni subordinate, cosa che invece non è possibile fare utilizzando lo strumento che è stato, è un po' complicato, mi rendo conto, però purtroppo è così, lo strumento che è stato definito con questo decreto che tu hai chiamato salva banche, perché questo fondo di risoluzione, che è diciamo un fondo che viene alimentato dai contributi del sistema bancario stesso, prevede poi che vengano diciamo salvati i conti correnti, i depositi e le obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate, che sono una tipologia diversa di obbligazione, ovviamente molto più rischiosa, si chiamano subordinate proprio perché in caso di problemi finanziari per chi li ha emessi, quindi nel nostro caso per la banca, il rimborso di queste obbligazioni è subordinato al rimborso di altri crediti, quindi prima si pagano gli altri crediti, poi se ci sono ancora soldi si pagano gli obbligazionisti subordinati. Ovviamente in questo caso i soldi non ci sono perché diciamo queste banche di fatto non esistono più, sono nate 4 nuove banche grazie a questo decreto salvablanco e quindi ci sono 100.000 mi sembra circa obbligazionisti subordinati che perdono grosso modo si stima 330 milioni di euro e non scordiamolo ci sono anche se ricordo bene 105.000 piccoli azionisti che perdono 2 miliardi di euro complessivamente perché gli azionisti perdono tutto al pari di questi obbligazionisti subordinati. Chico, ti leggo giusto velocemente due messaggi, uno di Walter che dice quello che percepisco sul salvataggio delle quattro banche è che qui da noi qualcuno ha fatto il furbo asserendo poi che è stata Bruxelles che ha dato l'ok sperando così di passarla liscia. Poi un altro messaggio dice i clienti trombati delle quattro banche salvate dal governo Renzi sono figli di un dio minore rispetto a quelli dell'MPS o qui le questioni sono diverse, cioè tu dici loro avevano un profilo di rischio, avevano scelto delle cose per investire un po' rischiose. È chiaro che diciamo probabilmente, molto probabilmente, diciamo, i clienti ai quali sono state vendute queste obbligazioni, che lo ripeto, sono obbligazioni diciamo molto rischiose, no? Perché addirittura guarda, noi lo pubblichiamo, lo scriviamo domani sul giornale. Nel prospetto di queste obbligazioni vendute, alcune tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, c'è scritto in modo esplicito in caso di liquidazione o di sottoposizioni a procedure concorsuali dell'emittente, il rimborso di queste obbligazioni è subordinato alla preventiva soddisfazione di altre categorie. Forse di bisognerebbe essere più chiari, meno pollosi nel scrivere queste cose. È ovvio che diciamo un risparmiatore non particolarmente attento, un risparmiatore che si reca allo sportello bancario e trova diciamo il vicino di casa, se posso dire, perché parliamo di piccole banche, di banche del territorio. Quindi lo sportellista, diciamo, l'impiegato che lo consiglia. Che ti consiglia e ti dice prendi queste obbligazioni che ti danno il 6-7% di rendimento, è chiaro che non ha gli strumenti. Quindi è evidente che in questa vicenda, come dire, un problema di controlli, di autorità di vigilanza, eccetera, c'è, perché queste cose non devono succedere, cioè il risparmio non può essere, il risparmio delle persone non può essere tradito in questo modo, questo è evidente. E adesso che cosa succederà? Non lo sappiamo, nel senso che tu l'hai accennato, cioè il governo si sta impegnando in una strada molto complicata, cioè quella di diciamo di garantire una sorta di fondo di solidarietà che dovrebbe ammontare a 100 milioni di euro, quindi per ripagare in parte le perdite di questi obbligazionisti. E poi sembra che si stia pensando a uno strumento diciamo leggermente diverso, una cosa che è già stata, una soluzione che è già stata diciamo messa in atto in Spagna, dove diciamo il rimborso a questi obbligazionisti è stato riconosciuto da un giudice, però è stato anche costituito una sorta di foro arbitrale per accelerare le pratiche. Quindi bisognerà, se verrà approvato questo emendamento, insomma, bisognerà dimostrare di non essere stati adeguatamente informati sui rischi di questo investimento. Su quello che diceva Renzi, dico l'ultima cosa, sulle banche tedesche, aggiungo che complessivamente in Europa i salvataggi bancari sono costati 800 miliardi di euro. Poi a un certo punto nel 2013 le regole sono cambiate, proprio perché ci si è accorti che non era, diciamo, giusto porre a carico della collettività un costo così pesante, e dal 1 gennaio entreranno in vigore regole ancora più severe, perché oltre agli obbligazionisti subordinati potranno, diciamo, perdere il proprio investimento anche le obbligazioni ordinarie e anche i conti correnti sopra i 100.000 euro. Chiarissimo. grazie Chico Padula, ciao, grazie, buon lavoro, ciao. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Monza assolve Penati Filippo, Vimercati Giordano, Binasco Bruno, Moser Norberto, Di Caterina Piero, perché il fatto non sussiste e l'udienza è tolta. Cosa avete sentito? È la sentenza che è arrivata oggi sul processo sulle tangenti a Sesto San Giovanni nel Milanese, processo che vedeva coinvolto anche Filippo Penati, ex sindaco appunto del comune milanese dalla fine degli anni 90 al 2001 e poi capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani. C'è la nostra Raffaella Calandra che ha seguito oggi al Tribunale di Monza la parte finale di questo processo e la sentenza. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Senti, ci sintetizzi le tappe di questo caso giudiziario? Beh, quella di oggi è la conclusione di 4 anni di una vicenda congiudiziaria che è stata, come ricorderanno i nostri ascoltatori, un vero terremoto politico per il PD. Comincia questa inchiesta, un'inchiesta che accusa, che ipotizza l'esistenza di un sistema Sesto, cioè di un sistema di tangenti ipotizzato nel mondo delle costruzioni, nel mondo dei trasporti pubblici, negli appalti per l'autostrada da Milano Serravalle, un sistema di tangenti che avrebbe avuto al centro, questa era l'accusa iniziale della procura, proprio Filippo Penati, l'ex presidente della provincia di Milano, l'ex uomo forte della PD Lombardo. In sostanza l'accusa, secondo la procura di Monza, era che avrebbe utilizzato soldi frutto di corruzione e di finanziamento illecito ai partiti per le proprie campagne elettorali e per la propria carriera politica. Che cosa è successo nel frattempo? Ci sono stati anche vari filoni in cui tutta questa inchiesta si è suddivisa. Nel frattempo è successo che i giudici, la Corte e il Tribunale di Monza ha stabilito, dopo un dibattimento anche abbastanza teso in cui ci sono state anche delle ritrattazioni da parte di alcuni degli accusatori di Filippo Penati, ha stabilito che devono essere tutti assolti perché il fatto non sussiste, cioè quindi una soluzione profonda nel merito. Prima però era anche già successo che era caduta in prescrizione proprio per il lungo tempo passato e per un fatto molto importante che era successo, cioè il cambiamento della legge sulla concussione con la cosiddetta legge Severino. Ricorderete le polemiche che c'erano state proprio intorno al cambiamento di questa legge e ai benefici che avrebbe avuto, si disse all'epoca, per Berlusconi, per la vicenda Ruby e per Penati proprio per questa vicenda. Quindi il cambiamento della legge e la riformulazione dei termini di prescrizione ha fatto sì che da questa vicenda sia uscita l'accusa che riguardava le presunte tangenti sulla riqualificazione delle aree FALC di Sesto San Giovanni. Quindi questo è successo, quindi una prescrizione che ha fatto cadere una parte con l'accusa di concussione, una delle accuse principali che venivano mosse da questi due grandi accusatori di Penati, ossia il manager Piero Di Caterina e l'architetto Sarro. governo. Ecco, questa è caduta, ma su tutte le altre vicende che erano contestate a Penati e agli altri 9 imputati più una società, oggi la Corte ha stabilito che il fatto non sussiste, quindi una soluzione molto, molto forte, che chiaramente fa leggere anche con un'altra prospettiva anche tutto l'iter politico che questa vicenda aveva avuto, perché Penati appunto poi si era autosospeso. Poi è stato scaricato da DS, PD eccetera eccetera. Scaricato da DS e PD, però bisogna anche dire che lui aveva detto in origine che non avrebbe beneficiato della prescrizione. Poi c'è stata un'udienza un po', come dire, un po' surreale durante questo processo, in cui nel giorno in cui si doveva stabilire se lui avesse beneficiato o meno della prescrizione, diciamo, non è stato possibile rintracciarlo da parte del suo avvocato, per cui di fatto la prescrizione è entrata in vigore e quindi ha fatto cadere una parte di questa accusa. Allora, però, bisogna dire anche un altro elemento, che secondo appunto lo stesso Piero di Caterina, che poi ho incontrato dopo questa sentenza, in realtà non viene affatto smentito quello che era il cosiddetto sistema sesto, anzi lui dice il sistema sesto c'è ed è evidente, e questo perché lui dice: io avevo prestato dei soldi a Penati e quindi alla politica, non ho mai detto che fossero un finanziamento illecito ai partiti, ma era un prestito, quindi come a spostare il livello da un piano, diciamo, di illecito penale, per cui la Corte oggi dice non c'è stato finanziamento illecito ai partiti, ad un piano di altro tipo, che è quello, diciamo, dei rapporti con la politica. Sì. Comunque il dato giudiziario importante di oggi è la soluzione piena. Benissimo, grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. A dopo. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre qui, è con voi come sempre fino alle 22. Tra poco vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Intanto continuo i vostri messaggi dalla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. A proposito di questo giro di vite della regione Lombardia sul il burka o altri veli che coprono completamente il viso, i caschi, insomma, in regione Lombardia, in ospedali e negli uffici non si potrà più entrare così bardati. Che Cristiano scrive: può anche passare come un sano provvedimento, attento alle cautele e pericoli sociali figli di questo tempo, ma gli ottoni leghisti in sottofondo si sentono presenti e feroci nel loro pugno razzista. E poi Ilaria scrive: io sono d'accordo sull'estensione della normativa per evidenti motivi di sicurezza, tuttavia non posso in coscienza dire che sia una liberazione per le donne che indossano burka o quant'altro, questo è un discorso culturalmente delicatissimo. Effettivamente lo è, continueremo tra poco su questo. Intanto vi ricordo le notizie più importanti sono il salvabanche, il decreto che dopo la notizia del pensionato che si è tolto la vita, la procura indaga quella di Civitavecchia per istigazione al suicidio, Renzi difende il decreto, dice ha salvato posti di lavoro, ma scoppia la polemica con Bruxelles. Poi il processo per le tangenti a Sesto San Giovanni, assolto Penati e tutti gli altri imputati, prescritte le vicende Falk e Marelli. E poi coppie gay, sentenza storica, ne parleremo tra pochi istanti. Una sentenza storica che c'è stata a Milano, vi dicevo, e la Corte d'Appello del capoluogo lombardo ha dichiarato l'efficacia in Italia del provvedimento con cui una donna ha adottato in Spagna la figlia della sua compagna, le due si erano sposate e poi hanno divorziato nel paese iberico, nata questa bambina con fecondazione eterologa. I giudici hanno ordinato la trascrizione dell'atto, la ragazzina adesso ha 12 anni e per i giudici è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata e istruita da entrambe, e quindi insomma questo atto va trascritto. Ne parliamo con l'avvocata Susanna Lollini, che fa parte di Rete Lanford e del gruppo legale di famiglie Arcobaleno, che sono le famiglie composte da persone dello stesso sesso e che ha seguito insieme ad altri avvocati le vicende di varie coppie anche nei ricorsi alla Corte europea. Avvocata Lollini, buonasera. Buonasera. Come effettivamente una sentenza storica, nel senso che addirittura di una coppia separata con una figlia riconosciuta in Spagna è stata riconosciuta anche in Italia, questo farà giurisprudenza, lei pensa? Cioè ci sarà un seguito? Beh, è sicuramente una sentenza molto importante, anche perché riconosce l'efficacia legittimante dell'adozione, perché noi abbiamo già avuto delle sentenze che riconoscono l'adozione, diciamo così, della figlia biologica della propria compagna, ce ne sono state altre, ma sempre con effetti, con l'adozione in casi particolari, quindi con effetti non pienamente legittimanti, tanto per dire il più eclatante, gli effetti si limitano alla persona che ha avuto il provvedimento di adozione, non alla sua famiglia, quindi non ci sono nonni, non ci sono zii, non ci sono cugini. In questo caso invece no, è un'adozione piena a tutti gli effetti, quindi da questo punto di vista è molto importante, e ha ragione lei, è molto importante perché è stata adottata in un momento in cui, trascritta in un momento in cui la coppia è separata, quindi è una tutela di cui molte coppie sentono la necessità e il bisogno, perché quando la coppia va in crisi naturalmente è più difficile mantenere nervi saldi, garantirsi le cose che le coppie si garantiscono normalmente, perché le coppie omosessuali che in Italia non hanno nessuna tutela di nessun tipo, nemmeno per i loro figli, si rimettono soltanto alla loro buona volontà e al loro buon senso, non hanno protezione di altro genere. Questa è praticamente la famosa stepchild adoption che si vorrebbe introdurre anche in Italia con la legge Cirinnà, però continua questa norma, questo disegno di legge a rimanere incagliato qua e là, e ci sono i detrattori di questa sentenza della Corte d'Appello che dicono i giudici scavalcano e si sostituiscono al legislatore. Beh, non è il loro compito, ma diciamo che lo fanno perché pur sempre bisognerà dare tutela ai cittadini. Su questo varrebbe la pena di leggersi la sentenza americana, che ha stabilito che nessuno Stato può vietare il matrimonio delle coppie omosessuali, e che dice testualmente che le corti ci stanno per questo, a dare tutela ai cittadini di cui sono violati i diritti. Quindi è abbastanza paradossale, no, in Italia, che ancora dopo anni che si dice ci vorrebbe una legge per tutelare almeno le unioni civili per le coppie gay, intanto i giudici vanno avanti, molto avanti rispetto a... Ma guardi, non è che vanno tanto avanti, applicano la legge, perché sembra quasi che questi giudici gli facciamo fare cose rivoluzionarie e gli diamo anche un carico enorme. Anche questa sentenza della Corte d'Appello di Milano fa un elenco di norme, da partire dall'articolo 30 della nostra Costituzione, che dà tutela giuridica piena ai figli nati fuori dal matrimonio, alla legge sull'adozione, alla Carta dei diritti dell'Unione Europea, come alla CEDU, cioè applicano la legge, non è che inventano il diritto. Non è che scavalcano il legislatore, applicano le leggi che ci sono. Certo, ci dovrebbero essere delle leggi specifiche, più mirate, però ci sono già delle leggi in forza delle quali i giudici possono riconoscere tutela alle coppie omosessuali, ed è quello che fanno, ecco. Quindi se la politica non vuole rimanere indietro, si dia una mossa, insomma. Certo, i giudici non sono dei sovvertitori di legge, non è così, se li vogliono fare apparire così, ma non è così, anzi, mi pare che le sentenze siano sempre molto ben motivate, fanno riferimento a sentenze italiane e europee, quindi... Chiarissima. Avvocata Susanna Lollini, la ringrazio e le auguro buona serata. Grazie, anche grazie a voi. Buonasera. Europa 24. Ma invece a questo punto andiamo a Parigi, dove c'è la nostra inviata Laura Bettini. Vogliamo sapere come va COP21, la conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima. Mi pare che l'Europa veda piuttosto rosa ultimamente, anche perché è un alleato abbastanza forte. Ciao Laura. Sì, buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Va detto che proprio in questi minuti è stata rilasciata una nuova bozza di negoziazione che verrà ridiscussa alle 23:30, quindi insomma le cose vanno avanti, ma entro domani a quanto pare si chiuderà. Quindi, come dicevi tu, l'Unione Europea ha trovato un'amica negli Stati Uniti e nel loro rinnovato ardore per il clima, no? Ieri abbiamo sentito il segretario di Stato americano Kerry, che ha annunciato che raddoppierà i finanziamenti per l'adattamento cambiamenti climatici, quindi si passa 840 milioni di dollari. Non si parla di mitigazione, perché la mitigazione vorrebbe anche dire, tra l'altro, tagliare l'uso delle fonti fossili, e qui sugli Stati Uniti andiamo un pochino su un terreno scivoloso, ma comunque si tratta di soldi per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dall'altra parte però l'Unione Europea, non so se per merito di questa alleanza o per altri motivi, adesso vi dico cosa è successo, ha vinto due premi negativi, però si chiamano Fossil of the Day, quindi fossile del giorno, dove fossile non è tanto ovviamente il reperto archeologico, ma è l'uso delle fonti fossili. E ne ha vinti due, e gli sono stati attribuiti da un gruppo internazionale che si chiama CAN, che riunisce una serie di organizzazioni per il clima di tutto il mondo, Climate Action Network, questo è il nome completo, l'acronimo è CAN. L'ha vinto per, diciamo così, primo posto e terzo posto oggi, in primo luogo perché avrebbe ostacolato una revisione dell'accordo prima del 2020, una revisione che ovviamente sarebbe da fare al rialzo negli obiettivi, il che è un male soprattutto perché mette meno pressione ai paesi in via di sviluppo. La querelle qui è se la Cina è o meno in via di sviluppo e cosa deve fare la Cina per adeguarsi, diciamo, alla situazione e contribuire anche lei al taglio delle emissioni. Il secondo fossil lo ha vinto perché sempre l'Unione Europea lo ha vinto per aver insistito su obiettivi altissimi, no? Come sappiamo al massimo un grado e mezzo di riscaldamento globale al 2100, ma poi non aver lavorato ad esempio sul carbone in Unione Europea e sulla decarbonizzazione in Europa, e sappiamo che il carbone è il primo grandissimo inquinante, almeno in questo campo, e qui il primo pensiero direi di tutti noi può andare tranquillamente alla Polonia, che è fortemente dipendente dal carbone sia per estrazione che per uso, no? E quindi sono venute fuori probabilmente in sede di negoziazione le 28 anime dell'Unione Europea, che sono un po' tante. È vero che siamo siamo rappresentati da un commissario, un negoziatore eccetera eccetera, però dietro ci siamo in 28. Chiaro. E quindi ci sono pressioni. Laura, allora, visto che dici che è stata sfornata questa nuova bozza, ci riaggiorniamo domani sperando che qualcosa di concreto, di fattivo che guarda il futuro ci sia per domani. Grazie Laura. A domani Bettini. Alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino. Ciao Laura, grazie. E prestifera, mentre noi ci sentiamo alle 22 tra poco.